America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Da Antalya al G20, al seguito del presidente Obama, Mario Platero. I grandi 20, anzi 19, perché come sappiamo François Hollande non è venuto a questo vertice, sono di nuovo al lavoro. Poco fa ha parlato Angela Merkel, ma come dire, ha dato delle informazioni sul progresso economico, su alcune discussioni che si sono fatte sul commercio, sul rilancio della domanda, temi sicuramente in agenda prima dell'attacco a Parigi, ma che oggi sembrano lontani migliaia e migliaia di chilometri, perché la verità è che qui ad Antalya si è parlato di terrorismo, soprattutto dopo le ultime notizie. Ieri si cercava una strategia, oggi abbiamo le notizie degli attacchi, abbiamo anche i dettagli degli attacchi notturni francesi contro Raqqa, che il califfato ama definire come la sua capitale. I dettagli sono che l'attacco è stato compiuto da 12 aerei, da 10 caccia, sono stati compiuti degli obiettivi strategici con l'aiuto dell'intelligence americano. Altre due o tre notizie importanti in arrivo da qui, da Antalya. Putin e Obama, disgelo, c'è stata una stretta di mano. Obama ha apprezzato le azioni russe in Siria, si cerca la convergenza. Perché? Perché c'è anche in corso una strategia diplomatica dopo gli accordi di Vienna, e quella cioè di stabilizzare la situazione in Siria, e c'è un piano, c'è un programma, un cessate il fuoco, un periodo di transizione, una riforma della Costituzione e poi elezioni. Questa stabilizzazione siriana dovrebbe consentire di concentrarsi nell'attacco contro ISIS, e questo piano in realtà è in atto già da parecchio tempo, non è una cosa che è successa qui, per cui c'è un po' una dicotomia. A Parigi si parte subito all'attacco, bombardamento, cosa forse anche giusta perché Hollande l'aveva promesso, mentre qui si cerca di essere più riflessivi, si pensa all'intelligence, si pensa alle sfide che ci sono per tutti noi da qui al futuro. Con me ai microfoni di America 24, che anche lui è qui al G20, Federico Rampini, inviato di Repubblica, corrispondente dagli Stati Uniti, da New York. Buongiorno Federico, eccoci. Buongiorno. Allora Federico, intanto noi siamo qui, siamo al di là del centro stampa, su una piattaforma che guarda lontano, guarda verso il mare, questo meraviglioso Mediterraneo. Oggi una splendida, tiepida giornata di sole. A poche centinaia di chilometri c'è la Siria, c'è l'ISIS, c'è l'inferno. Ecco, c'è una dicotomia tra questa pace apparente, anche se noi qui siamo dietro un cordone sanitario di sicurezza, e quello che succede dall'altra parte. Che sensazione ti fa? Che sensazione pensi possa fare ai 20 grandi di essere così vicini? Certamente la sensazione di essere in un luogo cruciale per definire una strategia antiterrorismo. Del resto il presidente turco, il padrone di casa, ci ha ricordato prima di tutto che prima della strage di Parigi c'erano stati molti attentati sanguinosi qui in Turchia. Ci ha ricordato che la Turchia ospita un numero di profughi siriani molto ma molto superiore a quelli affluiti in Europa, si parla di 2 milioni di profughi, e la Turchia è certamente un attore fondamentale se il processo di pace politico-diplomatico in Siria deve andare avanti. Ecco, e questo, come tu dici, è un punto chiave. Perché? Perché l'attacco per la riconquista di Sinjar e quello che verrà, perché poi gli americani ieri un background ci hanno detto che ci sono appunto dei piani per attaccare poi anche Raqqa e per togliere il territorio a ISIS, insomma, questo ruolo dei curdi non piace molto ai turchi, e questa è un po' la sfida diplomatica di Obama: ricucire le varie differenze anche tra Arabia Saudita e Iran. Ecco, pensi che ci si riuscirà? Perché questo è un ostacolo non da poco. Questa è la scommessa di Vienna, dove c'è stato quell'ipotesi di accordo definita tra John Kerry, segretario di Stato americano, e il suo omologo russo Sergei Lavrov. Obama è convinto che non esista una soluzione solo militare alla guerra civile in Siria, che certamente questa soluzione non può dipendere solo dai raid aerei, ci vuole un controllo terrestre Questo controllo deve passare prima di tutto da un cessate il fuoco, uno dei punti dell'accordo di Vienna è che dal 1 gennaio dovrebbe esserci un cessate il fuoco. Per questo devono collaborare tutte le parti in causa, perfino Assad, questa è la grossa concessione che Obama ha fatto a Putin e anche all'Iran, ma tutte le parti in gioco vuol dire l'Arabia Saudita, la Turchia che sostengono diverse fazioni sunnite, l'Iran che sostiene i sciiti e perfino il governo Assad. Ecco, e il fatto che ci sia stata questa stretta di mano tra Putin e Obama in qualche modo manda un messaggio un po' a tutti, è arrivato il momento di seppellire l'ascia di guerra, no? E questo è un po' l'umore che emerge da questo G20. Questa è probabilmente la novità strategica del G20, il disgelo tra Obama e Putin, un'atmosfera completamente diversa rispetto all'ultimo incontro avvenuto a fine settembre a New York all'Assemblea dell'ONU. Anche perché Putin a sua volta ha subito una strage, non dimentichiamo il jet russo colpito e caduto sul Sinai. Ecco, e infatti un altro attacco terroristico, un nuovo failure, un fallimento dei servizi, anche in quel caso non sembrano essere in grado di anticipare alcuni di questi attacchi. C'è stato un passaggio strategico anche nel terrorismo, Al-Qaeda voleva colpire grandi obiettivi, pensiamo alle due torri, infatti io non credo che sia equiparabile quello che è successo a Parigi al 9-11. Ma questi servizi sembrano non essere in grado di controllare i cani sciolti. Secondo te è importante muoversi, come suggerisce l'America, verso un servizio paneuropeo? Ma gli americani, direi giustamente, evitano di salire in cattedra perché anche loro hanno avuto tanti fallimenti dell'intelligence. Non dimentichiamo ad esempio la maratona di Boston e i due ceceni che erano stati segnalati. Detto questo, gli americani sono perplessi di fronte allo spettacolo di un'Europa, di una Unione Europea che non ha una vera polizia federale, non c'è un FBI europeo, non c'è una CIA europea. Il livello di collaborazione, di cooperazione tra i servizi segreti e le polizie dell'Unione Europea è ancora largamente inadeguato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ci siamo lasciati venerdì con una giornata assolutamente normale e oggi, dopo il weekend, è successo di tutto, ma oggi, lunedì, la vita va avanti, life goes on, come aveva detto Tupac in questa sua grande canzone, la vita di ogni giorno, la vita delle piccole cose, delle celebrazioni, delle delusioni, delle soddisfazioni, la vita anche dei compleanni. Anzi, consentitemi una debolezza, perché oggi mia madre compie 94 anni. Life goes on, dunque, canzone bellissima, anzi vi consiglio di andare a vedervi il testo che ci descrive la violenza e i dolori degli slums afroamericani, dove nonostante tutto life goes on. Life goes on di Tupac. If I told you that I never thought of that, my niggas, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be alive. If I told you that I never thought of that, my niggas, we the last ones left. Life goes on. As I bail through the empty halls, breath stinking in my drawers. Ring, ring, ring. Quiet, y'all. Here come and call. Plus, it's my homie from high school. He getting by. It's time to bury another brother. Nobody cry. D'Antalya è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!